Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini? Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. E quando sono le 16:10 dell'8 gennaio 2013, innanzitutto buon anno a tutte e a tutti dall'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Iniziamo con qualche nostro contatto. Il telefono è lo 06 49 17 50 se volete contattarci in diretta qui a Radio Onda Rossa. E invece se ci volete scrivere potete farlo, anzi vi invitiamo a farlo a oradibuco@ondarossa.info. Potete ascoltare le puntate precedenti e leggere molto altro su ondarossa.noblogs.org. E oltre a tutto questo vi ricordiamo che questi sono i microfoni di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, ma che campa del sostegno di tutte e di tutti coloro che se la sentono, e quindi aspettiamo, anzi contiamo sui contributi di tutti noi. E in particolare vi ricordiamo che la Scarcerandia 2013 è uscita da un mesetto, ma è ancora, come dire, molto attuale, visto che si tratta di un'agenda, e vi invitiamo a venire qua in via De Volci 56 a prendere la vostra copia, ricordandovi che per ogni copia venduta ne va una gratuitamente in carcere. Detto tutto questo, iniziamo a entrare invece negli argomenti che riguardano questo spazio radiofonico e quindi tutto quello che riguarda la scuola. Got pare che siamo rientrati alle vacanze di Natale un po' confusi, forse dall'eccesso di zuccheri nel sangue, non lo so. Però detto questo, iniziamo subito con gli appuntamenti di lotta, o perlomeno noi auspichiamo che di lotta siano, e in particolare parliamo del coordinamento delle scuole di Roma, che domani, mercoledì 9 gennaio, si riunisce in assemblea. Quindi tutte e tutti coloro che lavorano nelle scuole, che frequentano le scuole da studenti, che hanno figli che frequentano le scuole da studenti, sono invitate a partecipare. L'assemblea appunto si terrà domani a partire dalle ore 16 all'istituto Piaget in via Nobiliore 79, la zona della Tuscolana, e comunque potete trovare l'indirizzo e anche l'indizione dell'assemblea sul sito del Coordinamento Scuole di Roma, che è coordinamentoscuoleroma.wordpress.com. Allora, l'altro aggiornamento: a seguito dell'assemblea del coordinamento Scuole di Roma che si è tenuto lo scorso 16 dicembre, lì appunto l'assemblea ha deciso di convocare una manifestazione nazionale con corteo a Roma, e questo sarà il prossimo sabato, il prossimo a febbraio, il 2 febbraio 2013. E la piattaforma è più o meno quella che abbiamo già affrontato anche in altre trasmissioni: la scuola pubblica di tutti e per tutti, per il finanziamento della scuola pubblica statale, per lo stop al finanziamento alle scuole private e l'assunzione dei precari a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti, e contro qualsivoglia progetto di privatizzazione e aziendalizzazione degli istituti scolastici, quindi l'ex legge Aprea che è lì dormiente, e contro il patto sulla produttività e la sua estensione al pubblico impiego, e inoltre, poi ne parleremo successivamente, il governo Monti ci ha lasciato comunque un regalino a proposito del funzionamento delle scuole. Sì, poi va detto pure che nell'ambito della campagna elettorale, pure se, come abbiamo detto anche in altre trasmissioni, in altre situazioni, se di programma si parla poco, al di là di affermazioni così molto propagandistiche, la scuola non viene menzionata. Quindi quello che viene da pensare è che così come è stata lasciata, come diceva appunto la compagna, dal governo Monti, così rimarrà, e se invece poi magari non peggiorerà. Ecco, questo è un po' il quadro che ci troviamo. Quindi rispetto a come ci eravamo lasciati, rispetto alle mobilitazioni che ci sono state nei mesi scorsi, soprattutto sull'onda del progetto di arrivare a 24 ore di lezione frontale per docenti delle superiori e delle medie, e poi rientrata, però di fatto tutto il resto sembra rimasto immutato. Nessuno nei programmi parla di, almeno per quello che si sente, poi sinceramente andarceli a leggere non ci sembra un compito veramente, personalmente almeno per noi, insormontabile, e quindi questo fa pensare che forse più che mai, al di là di quella sulle 24 ore che qualcuno ha chiamato impropriamente una vittoria, invece ci sia ancora molto da combattere. Beh sì, in effetti nell'agenda Monti c'è nominata la scuola semplicemente per dire che bisogna introdurre questa, no, l'idea di meritocrazia, e l'Invalsi e l'Indire saranno i due organismi a cui sarà delegata questa introduzione, diciamo, del merito dentro la scuola. Ma il regalino di cui si stava parlando è appunto questa notizia che è uscita da ieri, quindi negli ultimi due giorni questa cosa è scoppiata, ed è diciamo la lettura dell'articolo 1 della legge di stabilità, quella di cui abbiamo parlato ampiamente, sul quale sulla legge, diciamo, si è concentrata la mobilitazione di studenti, di una parte dei docenti e degli studenti, articolo 1, comma 149. Diciamo, possiamo leggere la parte, quella incriminata, che dice questo. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui è presente comma. A decorrere dal 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. Quest'ultima frase ha destato diciamo, un pochino di, come dire, perplessità e anche la reazione di personaggi importanti e qualificati all'interno del sindacato e dell'Associazione Nazionale Presidi, e, che hanno poi diversamente commentato, come dire, ritenendo di leggere in quest'ultima frase l'introduzione dal 2014, quindi dal prossimo anno scolastico sostanzialmente, l'idea di erogare fondi alle scuole in maniera probabilmente direttamente proporzionale ai risultati conseguiti. Ora, la lettura in realtà per noi potrebbe non essere questa. E quindi, poiché è inserito all'interno del discorso di acquisti di bene, quindi di, come dire, della possibilità delle scuole di forse risparmiare, se, come dire, se si mettono d'accordo, se utilizzano delle procedure particolari nell'acquisto di beni, di materiali, e chi meglio si comporta avrà poi degli adeguati finanziamenti. Quindi, diciamo, la cosa è comunque grave perché, come dire, vengono comunque, dietro questo ci sono dettagli sostanzialmente, la lettura è che dietro questa frase c'è comunque l'idea che si debba tagliare da qualche parte, quindi inserire un criterio piuttosto vago e anche molto discutibile su come si debbano ripartire queste risorse sempre minori, ogni anno minori, ma in realtà sindacalisti e presidi e anche docenti ci hanno letto invece un regalo di fine anno, e quindi tutto quello che diciamo la pseudo vittoria, cancellazione delle non solo le 24 ore, il blocco della ex Aprea, e quindi questo abbiamo respinto, no? Con tutte queste nostra mobilitazione, questo tentativo sfacciato di privatizzazione della scuola pubblica, di ulteriore decurtazione, in realtà veniva inserito con una frase e mezza all'interno di un comma del primo articolo, l'ingresso del merito, diciamo, delle scuole. Obiettivamente l'articolo, così come lo hai letto tu e così come compare nella legge di stabilità, è piuttosto ambiguo, nel senso che in qualunque maniera lo si intenda non si riesce a comprendere come verranno valutati questi risultati conseguiti, perché è sintetico e estremamente criptico, e quello che alcuni hanno letto in questo articolo è in realtà quello che si temeva, quindi in qualche modo l'introduzione di un criterio di produttività rispetto a quella che è la funzione della scuola, quindi rispetto alla didattica, e evidentemente si è andati subito a pensare a quello che tante volte ci siamo anche detti, cioè che i risultati di quelli che possono essere determinate prove, come per esempio le prove Invalsi, avrebbero poi potuto andare a incidere su quelli che sono i finanziamenti alla scuola. In realtà a ben leggere questo non sembra, perché si parla di risorse per il funzionamento e il contesto obiettivamente sembra essere piuttosto definito, e cioè quello dell'acquisto di beni e servizi. Quello che è certo è che viene introdotto un criterio premiale per la distribuzione di risorse a qualunque titolo e per qualunque fine siano in qualche maniera destinate. Sì, certo, peraltro ricordiamo che ancora oggi i fondi di istituto delle scuole sono vuoti, e quindi l'anno ormai siamo quasi a metà e siamo ancora senza alcun fondo per il funzionamento delle scuole, forse non tutti lo sanno. Su questo, forse per chi ci ascolta e non vive di scuola, forse è bene specificare cos'è il fondo di istituto, cioè senza, non sono arrivati i soldi, quest'anno non esiste, fino a oggi 8 gennaio 2013 non esiste né nessuna scuola il fondo di istituto per l'anno scolastico 2012-2013. Appunto, spieghiamo magari brevemente, non so se, come dire, compagne più destre di me lo vogliono fare velocemente. Sinistre allora, più sinistra la vedo dura qui purtroppo, quando la professoressa, il professore parla, ogni tanto si va a trascinare. Il fondo di istituto sono dei fondi, dei soldi erogati a livello ministeriale alle scuole in base all'organico, cioè al numero di docenti e di personale ATA di diritto, cioè quelli titolari dentro la scuola, no? Quindi sono poi i soldi che serviranno a pagare il piano dell'offerta formativa, cioè quello che i docenti in particolare, i progetti eccetera eccetera nelle scuole, quindi i docenti e le docenti che partecipano, gestiscono questi progetti, poi le cosiddette funzioni che adesso non mi ricordo manco più come si chiamano, funzioni strumentali, cioè delle cose, dei incarichi che vengono dati a docenti per appunto determinate funzioni, che vi posso dire, per esempio, una è l'orientamento dei ragazzi in ingresso e in uscita dalla scuola, per dirne una, e allo stesso personale ATA. E questi fondi vengono poi distribuiti in base a una contrattazione di istituto con le RSU, quindi con i rappresentanti dei lavoratori dentro gli istituti, dentro le scuole, e però ovviamente questa contrattazione non si può fare perché non si sa effettivamente quanti soldi verranno, se verranno. Una cosa certa è che c'è una decurtazione, se non sbaglio, dei 40 e passa milioni di euro, quella, però senza danneggiare, senza creare problemi, adesso non ricordo la formula esatta, senza pregiudicare l'offerta formativa, per cui pure questo, insomma, è tutto un po' per aria e non fa sicuramente presagire nulla di buono. Sicuramente stanno tutti un po' studiandosi, visto che parliamo di scuola, è tutto adesso poi un po' sospeso, perché ovviamente quando si parla, si sta in campagna elettorale, insomma, avete sentito pure Monti che ha parlato addirittura di rivedere l'IMU, però e addirittura un punto IRPEF, però questo sempre ovviamente parlando di tagli di spesa, questo è il discorso. Quindi quando noi della scuola sentiamo tagli di spesa, sappiamo benissimo che siamo uno degli obiettivi principali, insieme ovviamente anche alla sanità, al welfare nel complesso. E la situazione che ha appena descritto la compagna potrebbe far pensare che nelle scuole le attività finanziate col fondo di istituto non siano partite, cioè che non vengano proprio svolte quelle attività, e invece non è così, perché al di là di quello che è stato, sono state le iniziative di blocco del POF, poi più o meno rapidamente sbloccato di inizio d'anno, però in moltissime scuole quelle attività è partito l'orientamento, sono partiti i progetti, sono partita tutta una serie di attività che vengono svolte da persone che non sanno se, quando, quanto e come verranno pagate. Questo deve far riflettere in qualche modo sulla sanità mentale degli insegnanti, perché sono attività... Su questo, se mi permetti, io vorrei lanciare un appello da questi microfoni, e cioè chiedere al collega, alla collega più realista del re, ma chi te lo fa fare? Ci telefoni e ce lo spieghi. 06 49 17 50. Tu, collega docente, che sei sempre più realista del re, sempre più avanti della dirigente o del dirigente, che corri a lavorare senza che ci siano i soldi per pagarti, perché lo fai? Spiegacelo. Io una risposta ce l'avrei, allora, perché questa cosa riguarda anche IATA, ovviamente, certo. No? Perché intanto una volta si diceva pochi maledetti e subito, adesso si dice pochi maledetti e chissà quando, quello è già un aspetto. Poi c'è il discorso che il POF è una sorta di vetrina della scuola in questa guerra all'ultimo sangue per le iscrizioni, con, diciamo, un anno annunciano che i tecnici vanno meglio, che i licei vanno peggio e così via, quindi le scuole si combattono veramente all'ultimo sangue per strappare iscritti e non perdere cattedre e così via, e posti anche di personale ADA, e quindi credo che sia anche questo un aspetto. Poi vabbè, ci sono questioni per cui ci vorrebbe lo psicologo forse, però queste le rimandiamo psichiatra. Eventualmente se qualcuno raccoglie l'appello. Sì, io volevo aggiungere una cosa, che se dobbiamo invece dare retta a questa interpretazione di questa riga della legge introdotta nottetempo a Capodanno, vabbè, nella legge di stabilità, che così la leggono, diciamo, gli esperti, quindi forse sanno qualcosa più di noi, beh, la preoccupazione deve essere molto alta, anzi già ci sono appelli per mobilitarsi, stare attenti, perché come dire, questo, le 24 ore sono salve, ma quello che abbiamo respinto una volta, cioè dalla porta rientra dalla finestra, e dunque l'idea che le scuole possano essere pagate in base ai risultati che ottengono, i risultati dove possono essere fatti, con quali criteri, si diceva prima. Beh, c'è ovviamente l'INVALSI, che sono prove di italiano e matematica in tutti gli ordini di scuola, ci sono i risultati dei promossi e bocciati, ci sono i risultati dell'esame di maturità per le superiori. Beh, pensate che cosa, quale meccanismo perverso si può instaurare dentro le scuole, no? Questa lotta, questa gara di cui dicevamo, tra scuole, tra docenti all'interno della stessa scuola, e con, come dire, se il criterio è voti, la media dei voti dei ragazzi, la scuola se funziona eccetera, oppure il numero di bocciati, pensate, io per guadagnare questi sporchi pochissimi brutti soldi, io sono in grado di alzare i miei voti bellamente e andare a fare il commissario esterno e penalizzare gli studenti che non sono miei per abbassare il risultato della mia scuola rivale, o e difendere i miei, alzare, cioè partirebbe un meccanismo che è un meccanismo che forse è tipico del sistema, come dire, neoliberista, e quindi la competitività, questa meritocrazia, ripeto, parola ancora molto così ambigua e pericolosa, e quindi la scuola diventa veramente un'agenzia educativa al servizio del capitale, del capitalismo e del confindustriale. E qui ci introdurrei anche il discorso del registro elettronico, no? Che non è partito in tutte le scuole, sta partendo, dovrebbe partire, non si sa, eppure questo, cioè il registro elettronico significa che voti, assenze eccetera vengono gestiti in maniera computerizzata, e quindi, e soprattutto poi i genitori possono accedere con una password alla situazione dei propri figli e figlie. Questo poi, insomma, non so se lo vogliamo affrontare oggi, magari non ce la facciamo, però ecco un accenno a questo, perché computer non vuol dire uso del computer non vuol dire sempre miglioramento, Facebook forse ce lo insegna, ma vi ricordate inglese, internet e impresa, no? Di Berlusconi, quindi questo, insomma, apre tutto uno scenario nell'ambito proprio anche di quello che diceva Fabrizio, cioè del discorso che alla fine la scuola diventa una qualcosa di immateriale, alla fine, dove il rapporto docente, studente e famiglie si perde, non esiste più a quel punto. Perché esamino attraverso i test, formo per portarti all'INVALSI, perché poi mi pare che nella licenza della media inferiore già sia così, per cui io non ti formo più che ne so, una capacità di critica, una capacità di giudizio autonomo, una capacità di gestire anche le nozioni eccetera, ma ti formo ai fini dei test, e poi con registro elettronico, con la consultazione da parte dei genitori e così via, non c'è più motivo poi di interagire fra famiglie e genitori, sempre nell'interesse ovviamente di studenti e studentesse, oltre a un livello veramente, insomma, sembra strano che lo dicano qui anche dei docenti, di controllo poliziesco, insomma, dei ragazzi, perché diventa sì, non questo. Si può più nemmeno, non so come si dice da queste fare parti, sega. Fare sega. E detto questo, però, io farei una pausa, perché abbiamo parlato 25 minuti secchi, e forse chi ci ascolta non so, e vi farei sentire Il liberismo ai giorni contati, De Baustel. Difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati rivoluzione ben artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66, ma ormai la fine va da sé. soccombere al mercato non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Un corpo fragile che sa d'essere morto, sogna l'Africa strafatta, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marx ed Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar e da anni non la chiamo più. E rientriamo in onda, questa è Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e rientriamo per dire, stavamo parlando della legge di stabilità e di come la scuola è entrata nella legge di stabilità, ma continuiamo per dire invece che in questi giorni natalizi, come dire, alcuni media hanno molto retoricamente, pomposamente celebrato la scuola post profumo per dire che questa scuola è sempre più moderna, sempre più all'avanguardia, perché quest'anno le iscrizioni per l'anno scolastico prossimo verranno fatte online e non più degli obsoleti fogli di carta. A parte il fatto che parlare di rivoluzione informatica per il fatto che ci si iscrive online e non attraverso un modulo cartaceo è quantomeno altisonante, insomma. Però insomma ci sono anche altre contraddizioni rispetto a questo che i media, che anche questi sono più realisti del re come i colleghi di qui sopra, così riportano senza mai mettere in dubbio niente di quello che sta succedendo. Perché ricordiamoci che siamo in un paese dove quelli che parlano, come dire, gli anglofili ci dicono che il digital divide è molto alto nel nostro paese. Questo significa che un 45% delle famiglie italiane, stando ai dati Istat, non ha accesso a internet, e poi di quell'altro 55% bisogna vedere quanto, come, chi in casa sa usarlo, chi non lo sa usare, per cosa la usa, eccetera eccetera. E quindi insomma questo digital divide per quanto riguarda poi l'iscrizione a scuola, insomma, può anche creare problemi alle persone fra l'altro fino ad oggi non era così complesso iscriversi, perché normalmente era lo stesso studente che portava il modulo, a meno che non fosse il primo anno, insomma. E, sì, sì, vale solo per il primo anno, ma dalla scuola dell'infanzia, Quindi per tutti gli ordini di scuola dal il primo anno, perché gli anni intermedi ovviamente rimane, se no sarebbe un casino, rimane vigente la procedura cartacea. Detto questo, ovviamente, oltre al fatto che sono sempre misure, insomma, che presuppongono anche un certo classismo, cioè quello di cioè il fatto che poi non c'è nemmeno delle postazioni internet per la parte di popolazione che non si paga a casa un abbonamento, insomma, oltre a questo c'è anche il fatto che chi avrà necessariamente bisogno di una mano per questa istruzione online dovrà ricadere nuovamente sulle segreterie delle scuole. Sì, ha detto proprio chiaramente nella circolare. Ecco, e qui io faccio un appello agli ATA, al personale ATA, in particolar modo al personale delle segreterie, perché qui appunto le incombenze aumentano e anche i carichi di responsabilità. E abbiamo recentemente appreso anche questa notizia di ieri che la Regione Toscana, per esempio, ha firmato un protocollo scavalcando a pie pari anche i sindacati, e ha firmato questo protocollo tra la Regione Toscana e MIUR per appunto ora una serie di competenze dell'INPDAP che riguardano la progressione di carriera e quindi la ricostruzione di carriera e quant'altro, che già viene dalle scuole svolta a parità sempre di stipendi, anche quest'onere con annessa formazione professionale, qui i sindacati appunto contestano il fatto di essere stati scavallati, in quanto anche per la formazione del personale a scuola è prevista, ci sono gli accordi del contratto collettivo nazionale. Quindi per ora è solo nella Regione Toscana. Il personale ATA che già risente, allora un piccolo aggiornamento per quanto riguarda questo famoso transito forzato degli inidonei, tutto tace, è rimasto tutto così aleatorio, non c'è nessuna disposizione in merito, non si sa. Ricordiamo che si tratta di docenti che non sono più in classe, esatto, per motivi di salute, e che nello scorso governo ha pensato di mettere nelle segreterie. Dopodiché è passato questa normativa, non è stata stralciata come le 24 ore, quindi questa resta. Dopodiché però appunto ci sono state vari ricorsi e quant'altro, però al momento tutto tace. Sono ferme le immissioni in ruolo del personale ATA, quindi non c'è questa rotazione, no? Ci sono delle graduatorie, insomma non c'è un reintegro delle persone che stanno ancora su posti vacanti, e di questi personali in idoneo, quindi hanno dei contratti fino all'avente diritto. Oltretutto ci sono delle abiezioni giuridiche, nel senso che proprio viene stralciata anche qui una norma contrattuale in cui i contratti anche per il personale a tempo determinato deve avere un inizio fine, un inizio, una fine, e invece al momento ci sono molte persone nel personale delle segreterie assunte con questa dicitura fino a nomina dell'avente diritto. E in più ovviamente non ci sono le convocazioni dalle graduatorie definitive, permanenti, per cui non c'è assolutamente un impiego, ci sono solo chiamate su piccole supplenze, quindi le segreterie sono già in questo momento sotto organico, organico non quello funzionale di diritto, ma da un punto di vista proprio della necessità di svolgere dei carichi che diventano sempre più pesanti. E io vorrei capire, dopo quella, scusate se mi esprimo in questi termini, ma quella pagliacciata fatta sotto il MIUR il 13 dicembre scorso, in cui sinceramente, a parte qualche persona chiamata dalla CGIL, che almeno la CGIL comunque una posizione l'ha presa sugli ATA, poi è rimasta lì sul personale amministrativo, però io non sento, non c'è una voce da parte delle segreterie, da parte del personale precario, da parte dei docenti in idonea. Non lo so, se non ci si muove, se non si in qualche modo si inizia una mobilitazione anche su questi temi, non credo queste norme passeranno, questi tagli resteranno, queste maggiori incombenze sul personale di segreteria aumenteranno a parità di stipendio. Bene, detto questo, io direi che passiamo ancora un altro brano musicale, che è di Cristicchi e ti intitola Bastonaci. Credo che con questo potrete intuire il tema che con cui andremo a chiudere la trasmissione di oggi. E 4. Bastonaci, oh Signore, bastonaci, oh Signore, dall'alto dei cieli, bastonaci, oh Signore, frustaci, oh Signore, frustaci, oh Signore, dall'alto dei cieli, frustaci, oh Signore, schiaffeggiaci, oh Signore, ogni volta che vuoi, amiamo soffrire, questo lo sai, dai prendi quella verga e Signore, la nostra ingenuità, riempici di botte senza pietà, infliggi punizioni su di noi, tanto che ti importa, soffriamo noi, schiaffeggiaci, oh Signore, ogni volta che vuoi, amiamo soffrire, questo lo sai, dai prendi quella verga e dai. Oh Signore, dalla letizia, implodi con la forza contro di noi, castigaci per ogni atto impuro, perdonaci poi qualche rara pugnetta, calpestaci oh Signore, dovunque sarai, i segni della frusta imprimici dai, dai prendi quella frusta e bastonaci, oh Signore, se tu lo vuoi, arruba bandiera, gioca con noi. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la. Sì, allora, l'ultima puntata prima delle vacanze di Natale abbiamo cominciato a parlare della questione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Adesso non facciamo riassunto perché sennò prendiamo tutto rimanente della trasmissione. Sì, giustamente la potete anche riascoltare anche sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info, sull'ora di buco.noblogs.org. Avevamo affrontato la questione del reclutamento di questi docenti e queste docenti e come fosse completamente diverso da reclutamento che normalmente si fa per tutti gli altri tipi di insegnamento, insomma adesso non di ingiustizie veramente enormi, di differenze macroscopiche non ci torniamo. Volevamo però adesso invece parlare dell'insegnamento in particolare, cioè che cosa significa all'interno poi della valutazione di studenti e studentesse, che ricadute a questo tipo di insegnamento, oltre a rammaricarci perché di fatto, pur essendo vigente la modalità dell'avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento, questo in seguito al secondo concordato fatto con il governo Craxi e tra il governo Craxi e il Vaticano, e ci rammarichiamo perché insomma invece continua ad essere una maggioranza schiacciante, va detto, poi pure su questo ci sarebbe da ragionare, di ragazzi e ragazze che si avvalgono appunto dell'insegnamento della religione. Ci chiedevamo per esempio che cosa si insegna effettivamente in classe quando si insegna religione cattolica. Una volta, almeno io che sono andata a scuola quando ancora non c'era la corrente elettrica, praticamente l'ora di religione era così un momento di più vari, poteva essere qualsiasi cosa, magari c'era quello, noi come libro di testo c'avevamo la Bibbia e ti interrogava sulla Bibbia, però poi la cosa insomma alla fine non era e metteva pure due, non era assolutamente gestibile, per cui alla fine diventava, a seconda un po' della personalità anche del docente o della docente, diventava poi un momento in cui magari si poteva anche parlare di vari argomenti, sempre ovviamente gestiti da un docente di religione. E quindi ci chiedevamo appunto se è cambiato qualche cosa oggi nell'insegnamento della religione. Questo noi lo chiediamo, magari lo rimandiamo alle prossime trasmissioni ai studenti e alle studentesse, perché poi sono loro che stanno in classe e quindi sanno bene che cosa viene insegnato, che cosa viene detto in queste ore di religione. E però ci interessava anche aprire un discorso su una questione che è stata anche oggetto di ricorsi, poi praticamente persi tutti o quasi, sulla questione di come poi il docente di religione, non avendo di fatto tutti gli alunni che si avvalgono, quindi essendo insegnante di una parte, anche se magari maggioritaria, di alunni in determinate classi, come poi invece questo, diciamo, come si rispecchiava questo poi nella valutazione, che noi sappiamo che la valutazione all'interno dello scrutinio, sia intermedio che finale, quindi della promozione o meno degli studenti, è una valutazione collegiale dove c'è per esempio il voto del preside che ha un valore particolare, eccetera eccetera, quindi questo c'ha sicuramente un significato. Quindi ci si chiedeva che cosa, cioè non è che ce lo siamo chiesto solo noi, dicevo è stato oggetto di ricorsi insomma civili, che cosa significa che tu stai in classe, dai un voto, cioè dai un giudizio, appunto partecipi al giudizio collegiale su un alunno, un'alunna, e però non è alunno o alunna tua. C'è la questione poi dell'insegnamento alternativo, che però, e quindi ci sarebbe un altro insegnante che c'ha quell'altra parte e così via, però poi di fatto spesso o non c'è addirittura l'insegnamento alternativo, non è previsto in quella scuola, oppure magari gli studenti si decidono per lo studio individuale più o meno assistito, quindi in realtà gli manca un docente che faccia una valutazione. Ho sbagliato cursore. Rispetto a queste le questioni sono molte in realtà, perché essendo che l'ora di religione cattolica è evidentemente un obbrobrio, anche così immaginarselo, no? Nell'ordinamento scolastico, crea molte storture, e per esempio crea la stortura sempre più diffusa ultimamente che gli insegnanti di religione non hanno solo il loro ruolo di insegnanti di religione, ma assumono anche altri ruoli, per esempio quello del coordinatore o della coordinatrice di classe, e quindi ci si trova in una situazione sempre più frequente in cui alcuni studenti hanno come coordinatore un insegnante che non è un loro insegnante, perché quello è coordinatore in una classe, ma magari lo studente non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica e quindi sostanzialmente il coordinatore della classe non lo conosce. Ancora a livello più alto è molto diffuso oramai che gli insegnanti di religione diventino vicepresidi, vicari del preside, eccetera, e quindi anche lì abbiamo vicepresidi, insegnanti che, come dire, hanno uno statuto particolare perché insegnano una materia che ha un portato talmente ideologico che ci si può non avvalere, che lo studente, la studentessa o la famiglia, quando questa è minore, può decidere che lo studente non si avvalga. Ora, tutto questo sono storture sempre più evidenti, che diventano sempre più numerose negli ultimi anni, soprattutto da quando gli insegnanti di religione sono entrati in ruolo, perché gli insegnanti di religione fino alla Moratti, pace all'anima sua, potevano essere soltanto, avevano incarichi solo annuali, mentre proprio perché vengono nominati dal vescovo, pagati dallo Stato ma nominati dal vescovo, il vescovo ogni anno fra l'altro deve dire se gli sta bene o no quello o quella. E invece con la Moratti sono entrate in ruolo, quindi entrando in ruolo, oltre alle altre cose, molto più spesso assumono incarichi che riguardano anche la gestione della scuola in senso più ampio che non il loro stesso insegnamento. Sì, infatti io volevo dire e ribadire proprio questo, che all'interno del sistema di storture che caratterizza l'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana, la stortura più vistosa, almeno a mio parere, è il fatto che loro a un dato momento abbiano ottenuto il ruolo, perché in precedenza erano insegnanti con uno statuto assolutamente particolare, perché venivano nominati su segnalazione della curia, venivano nominati dal dirigente scolastico e con un contratto annuale, quindi erano insegnanti con uno statuto assolutamente particolare. Dal 2004, previo svolgimento di un concorso che ha riguardato la verifica esclusivamente delle attitudini didattiche in qualche modo e non i contenuti, perché sui contenuti è competente la Chiesa Cattolica, quindi non c'è stata nessuna possibilità di verifica rispetto a questo, queste persone sono entrate in ruolo e conseguentemente sono state di fatto equiparate come stato giuridico agli altri insegnanti. Questo, tra le altre cose, oltre a quello che diceva la compagna, che è un fatto molto grave, e però comporta anche il fatto che queste persone, qualora siano in possesso dell'abilitazione, possono entrare in ruolo come insegnanti di religione, e cioè di fatto su segnalazione della curia, che è competente territorialmente peraltro, e dopodiché possono, a loro piacimento ritengo, decidere di cambiare classe di concorso e di entrare nei ruoli dell'insegnamento disciplinare, passando avanti a persone che invece stanno magari facendo il precariato non avendo avuto quel canale preferenziale di accesso. Vorrei, scusa, solo sottolineare proprio su questo che non è un'ipotesi, cioè nel senso che posso raccontare io brevemente un fatto, cioè nel senso che io ho insegnato in una scuola dove l'insegnante di religione, che era una donna mia coetanea, mi disse: no, io sai, anch'io sono laureata in lettere, anch'io sono abilitata per la 051, che è la cattedra su cui insegno io, però sai, ho 3 figli, non è che potevo fare tutto il percorso del precariato, quindi ora insegno religione, così quando entro essendo entrata di ruolo poi posso passare senza fare la SIS che c'era all'epoca e senza anni di precariato. Ovviamente si trattava di una focolarina, perché non è che chiunque diventa. No, infatti questo va detto, veramente noi non su questo siamo proprio spietati sui docenti di religione, nessuna pietà, perché tu sei entrato per raccomandazione del vescovo, c'è gente che è entrata. E poi fra l'altro sulla questione del ruolo va detto che la cosa più grave secondo me è che i cosiddetti precari di religione, che sono quelli che vengono nominati ogni anno dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno dopo, quando ormai questa è una tipologia che per gli altri precari sta praticamente scomparendo, e non c'hanno nessun problema. Una volta che sei entrato, a meno che proprio non fai cose brutte che al vescovo non piacciono, tu stai tranquillo, anche perché insomma poi se l'aggiustano, perché anche con una riduzione degli alunni avvalente di fatto le cattedre non si perdono mai. Questa è una cosa che chi sta nella scuola si accorge, devi proprio perdere decine e decine di alunni. Ma e loro non si perdono anche perché non le fanno perdere. Non le fanno perdere, certo, li redistribuiscono in maniera che, perché uno potrebbe dire: vabbè, ma perché non li metti tutti insieme in una classe quelli che fanno religione? Cioè, che gli deve succedere? Quando si sono per esempio aboliti i bilinguismi, quindi per esempio il francese e il tedesco nelle scuole superiori, ma anche nelle medie, sono scomparsi perché non è più ammissibile una classe bilingue, quindi ormai impera l'inglese, della famosa trilogia internet inglese imprese. Quindi e queste persone vengono comunque, questi cosiddetti precari, nominati sempre dal vescovo, e poi non passa più per il dirigente la ratifica, ma passa direttamente per l'ufficio scolastico regionale. Il dirigente fa il contratto materialmente come lo fa per qualsiasi altro precario, ma non può intervenire sul merito di quella nomina come in teoria si poteva fare in precedenza. Quindi oltre tutta una serie di prebende che hanno questi precari, oltre al fatto che sono precari di nome ma non di fatto, oltre al fatto che hanno diritto a una ricostruzione di carriera, cioè al riconoscimento degli anni pregressi, cose che abbiamo detto approfonditamente l'altra volta. Quindi insomma è una situazione veramente di privilegio, oltre a essere pagati alle scuole medie inferiori, non come i colleghi e le colleghe delle scuole medie inferiori, ma con lo stipendio di quelli delle scuole medie superiori, che non sta veramente questa cosa né in cielo né in terra.